La versione di Oscar Giannino. The future's in the air, can feel it everywhere, I'm blowing with the wind of change. Eccoci qua in diretta in questo 8 settembre, martedì alle 16.31, primi 26 secondi. Per un po' di tempo la farò andare un pochino più in lungo, poi naturalmente inizierò ad andare subito con l'audio, ma per farvi prendere l'abitudine con questa nuova sigla che da ieri, fedeli al patto che avevamo fatto con voi ascoltatori, abbiamo scelto dopo tra le vostre segnalazioni Windows Chase degli Scorpions. Allora, di che cosa parliamo oggi però, per consentirvi di intervenire all'800240024, di mandarci i vostri sms 349-238-6666, uno dei cavalli di battaglia di questa trasmissione, però non ne abbiamo parlato da che è ricominciata dopo la pausa estiva, cioè di fisco. Perché? Perché ci sono due questioni sulle quali ci interroghiamo oggi. La prima questione è di carattere generale. Avete l'impressione, domanda, che nel nostro paese le leggi penali e quelle sul contenzioso tributario siano congegnate in maniera tale da avere l'effetto di aiutare gli evasori? Ecco, vi faccio questa domanda perché nella prima parte della trasmissione traiamo proprio spunto da una sentenza della Corte Europea del Lussemburgo su un'istanza presentata dal Tribunale di Cuneo, e la Corte del Lussemburgo dice non va bene, cara Italia, perché i termini delle prescrizioni penali sui reati tributari nel caso italiano sono troppo stretti e quindi voi state in realtà aiutando gli evasori e ledete un principio di interesse comunitario, perché sapete che l'IVA è un'imposta comunitaria, e questo riguarda la prima parte della trasmissione, e noi abbiamo chiesto ovviamente al governo di darci una risposta a questa sentenza. Nella seconda parte della trasmissione iniziamo a richiamare gli impegni che il governo ha assunto, perché dalla fine di questo mese, e cioè dal 1 ottobre, inizia a scadere la lunga serie di clausole fiscali, le clausole di salvaguardia fiscale, il più riguarda l'anno prossimo e quindi vanno disposte in legge di stabilità, ma dal 30 settembre già ne scattano due al 1 ottobre, in cui se il governo non interviene ci sono 1 miliardo e 400 milioni di aggravi sulle imposte indirette, e quindi vedremo cosa il governo farà. Ma intanto ricordiamo che per il 2016 ci sono circa 16 miliardi di clausole di salvaguardia fiscale che poi si sommano alla copertura necessaria per i tanti provvedimenti di intervento fiscale, IMU, TASI, decontribuzione contratti, eccetera, eccetera. E quindi, ma tutto questo lo troveremo in legge di stabilità. Ma prima della legge di stabilità scattano queste due prime clausole. Intanto cominciamo da questa faccenda, cioè se l'Italia abbia delle norme favorevoli all'evasione. La notizia è stata lanciata stamattina della sentenza della Corte Europea del Lussemburgo dal Fatto Quotidiano. Sul Fatto Quotidiano scrive, e mi piace ricordarlo, l'ex magistrato Bruno Tinti, per tanti anni magistrato a Torino in Piemonte, che è per esempio rigorosamente e assolutamente dell'idea che l'Italia resti un paese in cui l'ordinamento è congegnato per favorire l'evasione fiscale. Io, come potete immaginare, ma conta meno, non sono affatto convinto di questo. Ricordo a tutti che uno dei decreti attuativi della delega fiscale più fresco e ha riguardato proprio la revisione di alcune parti fondamentali del contenzioso fiscale, le soglie sui reati penali rispetto agli illeciti amministrativi e così via. Ma che cosa riguarda la sentenza della Corte Europea del Lussemburgo? Il fatto era questo, pendente di fronte al Tribunale di Cuneo, era un giudizio relativo a una frode carosello, quindi stiamo parlando frode carosello sull'IVA, tra Italia ed estero, e la cosa riguardava importazione di champagne. Allora, poiché questi 7 imputati accusati di frode tributaria avevano organizzato, secondo l'accusa, tra il 2005 e il 2009 un'associazione per delinquere al fine di evadere l'IVA con società create ad hoc, documentazione falsa per far risultare che acquistassero e importassero bottiglie in regime di esenzione dall'IVA e così ovviamente pagando meno. E la faccenda di fronte al Tribunale di Cuneo arriva però fino a un punto nel quale una parte dei reati contestati si estingue per effetto della prescrizione e anche la parte più recente dei reati contestati sarebbe in realtà prescritta al più tardi a febbraio del 2018 e quindi non nella possibilità, stanti gli attuali tempi della giustizia italiana, di pronunciare una sentenza definitiva. Allora il Tribunale di Cuneo impugna la faccenda di fronte alla Corte Europea di Lussemburgo e dice: ma non è, si pone il magistrato italiano questo interrogativo retorico, sperando in una risposta favorevole ovviamente alla Corte di Lussemburgo, che i termini di prescrizione italiana sui reati tributari siano inadeguati e per effetto di questo, quindi, cioè del fatto che noi magistrati non possiamo poi emettere sentenze, si ledano anche interessi finanziari dell'Unione Europea, visto che appunto l'IVA è imposta europea e quindi tira in ballo l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione, cioè l'articolo del trattato che dice che tutti gli stati devono coordinare la loro azione diretta a impedire frodi nei confronti dell'Unione Europea. E la Corte del Lussemburgo dice in effetti il problema che avete sollevato è un problema fondato, perché in Italia, rileva la Corte di Lussemburgo, questa condizione non è inconsueta, leggo testualmente, una peculiarità del diritto italiano che alla data dei fatti permetteva una proroga del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata, termine insufficiente per ottenere una sentenza definitiva in Cassazione. E quindi, dice la Corte Europea di Lussemburgo, per effetto di queste norme italiane, in realtà voi è come se concedeste una specie di impunità di fatto dovuto allo scadere del termine. Allora, è così? Non è così? È cambiato qualcosa in meglio o in peggio? Mi rendo conto che per voi che avete letto questa settimana la stima di 43 miliardi di IVA evasa in un anno nel nostro paese, alcuni di voi penseranno che ovviamente sia davvero così. Allora, la cosa migliore di fronte a questa sentenza che abbiamo pensato di fare è di chiedere direttamente al governo, sia pure con una lettura non troppo approfondita del dispositivo della sentenza, di sentire una parola che possa o rassicurare o spiegare che cosa è cambiato recentemente nelle norme sui reati penali tributari e sul contenzioso tributario, in maniera tale da farci capire se è fondata l'impressione, secondo il rilancio di questa sentenza della Corte del Lussemburgo, oppure se invece si tratti di una singolare interpretazione della prescrizione. La prescrizione negli ordinamenti c'è a tutela dei cittadini. Nel nostro paese, come sapete, i magistrati da anni contestano che il fine della prescrizione sia a tutela dei cittadini indagati e processati e ritengono che la prescrizione debba essere estesa per consentire, visti i tempi più lunghi della giustizia, che si arrivi a sentenza. E così un ordinamento che aveva fatto nascere tantissimi anni fa la prescrizione a tutela del cittadino, dell'indagato e del sottoposto a procedimento penale, diventa invece un'istituzione che secondo i magistrati dovrebbe, per così dire, essere volta a tutelare la certezza della sentenza da parte dello Stato, per quanto lunghi siano i suoi tempi. Ecco, fine della mia introduzione, e a questo punto io passo la palla però al sottosegretario dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti, che ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio. Grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio. Allora, tentiamo di spiegare a chi è in ascolto qual è la posizione ufficiale del governo e sua. Ma guardi, prima che una posizione ufficiale del governo, intanto una descrizione un po' anche di quella che è la fattispecie complessa. Prima cosa da dire con chiarezza: questa pronuncia non attiene alle norme specifiche del diritto tributario, ma attiene per intero alle regole che abbiamo in materia di prescrizione per tutti i reati, non per i reati tributari. Poi è chiaro, la Corte di Giustizia europea se ne preoccupa in relazione ai reati che hanno per oggetto l'IVA, perché come lei giustamente ricordava, l'IVA è un'imposta comunitaria e quindi la comunità europea se ne preoccupa giustamente in via diretta. Però ribadisco, qui non si stanno contestando norme di natura fiscale, e quello che è stato fatto con il recente decreto sulle sanzioni penali, dove peraltro relativamente alle frodi non si è fatto assolutamente nulla, precisiamolo, non siamo più nello scenario che peraltro io per primo avevo duramente contestato, quello che sembrava emergere di Natale 2014. Alla fine, come mi permetto di dire, innanzitutto noi di Scelta Civica avevamo detto con chiarezza, si è ritornati a un contesto dove per reati diversi dalla frode si è fatta un'operazione di parziale depenalizzazione, che non è questa la sede, ma sono pronto a difenderla alla morte per tante ottime ragioni e casomai ci sarà modo, mentre naturalmente sui reati come la frode nessun tipo invece di marcia indietro è stata fatta. Quindi intanto diciamo con chiarezza che quello che abbiamo fatto con il nostro decreto rispetto allo scenario non fa cambiare nulla. Il tema da affrontare è proprio quello della prescrizione, come si applica non solo ai reati fiscali ma in linea generale a tutti i reati, e non a caso sul versante giustizia, come si sa, è in essere, seppur con molte difficoltà perché tanto diverse sono le visioni sul punto, è in essere una operazione di revisione proprio della disciplina della prescrizione in generale, perché è indubbio che in passato, nell'ultimo decennio direi, nel decennio passato, purtroppo anziché lavorare di riforma della giustizia per fare in modo che si accorciassero i tempi dei processi, si è preferito lavorare di limitazioni in parte poco opportune dei tempi della prescrizione, andando davvero, come veniva ricordato, a snaturare un istituto nato per tutelare i cittadini, ma che finisce per alcune situazioni per rendere talvolta di fatto non condannabili coloro che compiono davvero dei reati, e questo alimenta purtroppo quella situazione intollerante che si vive tutti quanti noi in Italia giorno per giorno, cioè quella che ha sempre più chiara sensazione che questo è un paese dove tutti rischiano costantemente di essere, perdonatemi la parola, sputtanati, nel senso indagati anche in modo leggero, però poi alla fine invece di condannato non... La certezza della pena non ce l'ha. No, proprio è un paese dove tutti vengono indagati, nessuno viene condannato, se una persona è per bene, già il solo fatto di essere indagato, magari spesso anche in modo un po' leggero, è sufficiente a metterlo in crisi, in difficoltà. Se uno invece c'ha tanto di così di pelo sullo stomaco, il fatto di sapere che tanto per la fine la condanna non arriva lo fa sentire in paradiso anziché all'inferno. Noi dobbiamo cambiare questo, ma ripeto, è un cambiamento che attiene all'istituto della prescrizione. Qui la disciplina tributaria non c'entra direttamente, non c'entrano le modifiche che abbiamo fatto, è un altro versante, un versante sul quale si sta lavorando. Lei sa però che anche in materia esattamente toccata questa volta, le soglie per dichiarazione che sono state modificate anche sull'IVA proprio dal decreto di attuazione della delega fiscale, la polemica quest'estate, ma in tutto l'anno, mentre il decreto di delegato faceva i suoi passi, veniva emanato dal governo, poi andava per i pareri alle commissioni parlamentari e poi veniva emanato definitivamente, la polemica c'è stata, cioè c'è una parte della stampa, dell'informazione e della politica che è convinto che anche gli interventi che sono stati fatti questa volta in materia specificamente tributaria configurino una specie di abbassamento della guardia. Guardi, la polemica c'è stata e non ho dubbi che ci sarà ancora più forte tra qualche settimana, quando il provvedimento che ha concluso il suo iter andrà in Gazzetta Ufficiale e quindi si parlerà di norme che entrano in vigore e non più di un iter. Però le modifiche, come dicevo prima, noi non le abbiamo fatte i reati di frode sono stati lasciati, come era giusto che sia, sempre e comunque penalmente rilevanti. Per quanto riguarda invece i reati di dichiarazione infedele, che è qualcosa di diverso dalla frode, cioè non ti metti addirittura a fare documenti falsi per indurre in errore durante i controlli, semplicemente presenti una dichiarazione diversa dai documenti che hai e ci provi, e nell'istante in cui arriva un controllo però ti beccano subito. Ecco, per questo tipo di reati e altri minori abbiamo scelto di elevare o in parte soglie di depenalizzazione che già c'erano. Perché elevarle? Proprio per far sì che da un lato ci sia una maggiore concentrazione dell'azione penale con una maggiore incisività rispetto a un ingolfamento delle procure sulle fattispecie più importanti, in un contesto in cui ovviamente quando sei sotto soglia non è che è un mea libera tutti, non si persegue più l'evasione. Ci sono ovviamente delle forti sanzioni amministrative, arriva in Italia, ti fai pignoramenti, gli interessi di mora, cioè non è che sotto puoi evadere, semplicemente sotto ci preferiamo concentrare, evitando appunto anche di ingolfare a quel punto le procure, ci preferiamo concentrare sull'aspetto di recupero monetario e alziamo con quella finalità le soglie. Aggiungo peraltro che tutto questo avviene in un contesto in cui è il caso di ricordarlo, quando ci sono dei ricorsi dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate, che è quella che fa appunto l'atto anche di segnalazione in indagine, vince in modo pieno e netto meno del 50% delle volte. Quindi anche da questo punto di vista i numeri, in attesa che vengano affinati e che sia sempre migliore e incisiva l'azione anche dell'amministrazione finanziaria, i numeri ci dicono che anche prima di mettere il contribuente, l'impresa in condizioni di essere segnalata da un punto di vista penale con tutte le conseguenze che ne conseguono, soprattutto per le persone oneste, mi ricollego a quello che dicevo prima, è opportuno che andiamo su una soglia maggiore che ci fa nel frattempo anche concentrare sulle grosse evasioni dal punto di vista penale. Quindi su questo io sono assolutamente convinto che l'operazione che abbiamo fatto, per quanto sicuramente sgradita ai classici manettari anti-evasione che cercano in quel settore la soluzione di ogni problema del paese, esagerando come chi d'altro canto pensa esclusivamente ai tagli di spese e non alla lotta all'evasione, mentre un mix delle due cose è fondamentale, nonostante troveranno quell'opposizione, io quelle misure le trovo corrette, è stato coraggioso da parte del nostro governo farle, mentre per quanto riguarda, ripeto, reati come la frode fiscale non si doveva toccare nulla, esatto. Era sbagliato quello che si provava a fare lo scorso Natale, ma grazie anche all'intervento di Scelta Civica la chiusura poi del cerchio è stata una chiusura a mio avviso molto equilibrata. Nella fattispecie, come si suol dire, qualcuno si ricorderà, oppure comunque lo ricordo io, che io stesso l'indomani in quel Natale sono stato tra quelli che hanno urlato subito all'idea che qualcuno del governo, non si è mai capito chi fosse, a dire la verità, potesse pensare a una depenalizzazione della frode fiscale. Mentre io stesso, nel ringraziare il sottosegretario all'economia Zanetti essere stato con noi, penso che gli interventi fatti con il decreto delegato abbiano una logica, siano giusti e siano un pezzo degli interventi necessari. Un altro pezzo sarà poi la modifica degli incentivi ai dirigenti dell'apparato tributario dello Stato. Nel frattempo un altro pezzo che è in itinere dopo la sentenza della Corte è quella relativa proprio ai dirigenti illegittimi, al nuovo concorso che è stato bandito, anche quella una giusta scelta, perché non è stata la sanatoria ai dirigenti illegittimi che forse l'Agenzia delle Entrate, anzi sicuramente, si aspettavano. Allora, in tutto questo io mi sento di dire che domani chi rilancerà la sentenza della Corte di Lussemburgo dicendo ecco la conferma, l'Italia è un paese con le norme favorevoli agli evasori, se lo vuole fare legittimamente può farlo, però insomma i termini normativi sono questi e se la giustizia non funziona e ha tempi lunghissimi è lì che bisogna intervenire, non pretendere che nei tempi lunghissimi della giustizia che non funziona pieghiamo a questo punto la prescrizione al fatto che non c'è. Grazie comunque al sottosegretario e torniamo dopo le informazioni stradali su queste prime clausole di salvaguardia che scattano dal 1° di ottobre. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, 16:50, primi 43 secondi. Molti di voi mandano commenti sulla nuova sigla. C'è chi dice che non piace ai tedeschi perché gli evoca appunto la faccenda del muro e degli immigrati dalla DDR, in quel caso, ora che si apprestano a prendere centinaia di migliaia di siriani scegliendoseli, per così dire. Farò una puntata, vediamo se domani o dopodomani, sui due problemi che apre l'Italia questa svolta europea, in cui scegliendosi i profughi che sono più scolarizzati, più laici, dotati anche di un certo piccolo medio capitale rispetto ai migranti economici che per più della metà sono gli sbarcati italiani, ora l'Italia o si sveglia e fa qualcosa o noi restiamo con il nostro problema irrisolto e per di più con interventi militari in Siria e non in Libia, con il 90% degli sbarchi che vengono dalla Libia. Questi in sintesi due problemi di cui io sono convinto. Nel tripudio generale dei giornali mi pare che ci sia un deficit di riflessione concreta sui problemi che si aprono per l'Italia e che non, sottolineo, non vengono risolte dalla bellissima svolta tedesca, la Merkel di prendersi siriani a centinaia di migliaia, ma i nostri sono problemi di ordine diverso, e io spero che a quel tavolo l'Italia metta anche la questione delle quote per i migranti e la questione della Libia. Detto tutto questo, molti di voi mi hanno mandato sms dicendo che per le prescrizioni, il favor della legge agli evasori, la lunga eredità di Berlusconi, eccetera, eccetera. Rispetto a questo punto di vista, il problema però è che la prescrizione è contestata dai magistrati che la vogliono riallungare dicendo non bisogna intervenire sui tempi processuali, non dipende da noi, e quindi la prescrizione bisogna adeguarla ai nostri tempi. Io credo invece che sia una questione sbagliata, è la giustizia che deve essere più rapida nel rispetto dei diritti di chi è prima indagato e poi processato, e non il tempo giusto quello da misurare quello che serve ai magistrati. Questa è la mia personale opinione. Torniamo alla questione delle prime clausole di salvaguardia fiscale che scattano il 1° di ottobre, tra poche settimane. Facciamoci spiegare di che cosa si tratta, che cosa potrebbe voler dire, e tenete conto che è solo l'inizio, perché sono più di 16 miliardi di salvaguardia fiscale previste per l'anno prossimo. Allora, per parlarne è qui con noi Paolo Zabeo della CGA di Mestre. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, quali sono queste clausole che scattano tra poche settimane? Beh, la prima scadenza importante è appunto il 1° di ottobre. Se il governo non troverà 1,4 miliardi circa di euro, sostanzialmente dal 1° di ottobre avremo un aumento delle accise sui carburanti e per le imprese invece l'aumento degli acconti IRAP e IRES per il 2015, quindi quelli che verranno pagati a novembre. E quindi questa è la prima scadenza, ma la seconda, che è quella molto più importante e che è datata al 31 dicembre e quindi molto probabilmente il governo reperirà questi soldi con la legge di stabilità, dovrà trovarne oltre 16 miliardi e 8 per sterilizzare altre due importantissime clausole di salvaguardia, affinché dal 1° di gennaio dell'anno prossimo non ci troviamo con un aumento delle aliquote IVA e con una riduzione delle detrazioni e delle agevolazioni per cittadini e imprese, che chiaramente si tramuterebbe in un aumento delle tasse. Quindi è un'operazione spaventosa, perché entro la fine dell'anno complessivamente devono trovare oltre 18 miliardi di euro, e quindi mentre il Premier ma anche il Ministro Padoan ci annunciano mirabolanti tagli delle tasse sulla casa piuttosto che sulle imprese, noi ci siamo sommessamente permessi di ricordare che entro la fine dell'anno c'è anche questa scadenza, e quindi in qualche modo è utile, non fosse altro per una questione di serietà, dirci dove andranno a trovare i soldi, sia per tagliare le tasse sia per sterilizzare queste clausole di salvaguardia. Allora, io vi ringrazio per il fatto che lo richiamiate, per il semplice fatto che se sommiamo solo alcune poste delle promesse fatte dal governo questa estate, cioè 4 miliardi e rotti di abrogazione IMU-TASI, la decontribuzione per l'anno prossimo era prevista in 5 miliardi, gli aggiunti di decontribuzione alle imprese promesse valgono altre 4 o 5 miliardi, e sono 5 più 5 più, fa 10 più 4 sulla casa, siamo a 14, i nuovi contratti pubblici al minimo saranno 2 miliardi e sono altri 16 miliardi, gli effetti delle due sentenze europee, di cui una clausola di salvaguardia ne copre una, ma l'altra significa un altro miliardo, insomma si arriva a 18-20 miliardi di promesse fiscali più 16 miliardi di clausole da coprire. Però io non vedo tutti i giorni l'indicazione di come si tagliano le spese per questa roba. Ci crederò solo quando le vedrò. Grazie a Paolo Zabea e agli amici di Gia Mestra. Continuate con la 24, appuntamento con me a domani.